Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, sono le 7:17 minuti. Forza, cari italiani, siamo pronti a leggere i giornali, siamo pronti a discutere di che oggi parliamo, di questa vicenda delle province. Allora, secondo voi è una riforma epocale, cancellate le province, come titola enfaticamente qualcuno, oppure il Movimento 5 Stelle l'ha definito, come prima l'abbiamo sentito, il barbatrucco, come in barba papà. Che ne pensate? Ne discutiamo alle 8:15. Avremo il presidente dell'Unione delle Province Italiane, province che rimangono, non pensate, Antonio Saitta, presidente della provincia di Torino. Avremo ospite anche Claudio Velardi, che torna con noi. Andremo anche a parlare di immigrati, perché ci sono delle polemiche. Ci sarà con noi il sindaco di Vicenza, Achille Variati, alle 8:45, perché insomma sono sbarcati dei migranti e sono stati distribuiti come fossero pacchi postali un po' in giro per l'Italia, e diversi sindaci se li sono ritrovati così a gestire, a dire con preavvisi magari di poche ore, a dire dovete piazzare queste 40, 50, 60 persone, e ci sono molti sindaci arrabbiati a dire come al solito non c'è una politica corretta di gestione di questi fenomeni. Ne parliamo più avanti. Allora, oggi andiamo a leggere, mica domani, adesso, i giornali. Giovedì 27 marzo, i titoli intanto, il Sole 24 Ore apre sulla novità, scattano i controlli fiscali sulle spese dei contribuenti, lo vedremo più avanti con Mauro Meazza, attenzione, tutti gli acquisti oltre i 3.600 euro automaticamente entreranno nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, pensate di comprare un gioiello alla vostra amante? occhio. Allora, e poi il Corriere della Sera: il Senato taglia le province, il governo tiene la fiducia ma non fa il pieno di voti. Ma il Corriere ha anche un'intervista al presidente americano Obama con il Papa per sconfiggere la povertà. Obama, come avete sentito anche dal traffico oggi a Roma. Repubblica da oggi ha una grafica totalmente rinnovata, una grafica più snella, e la prima pagina, il titolo, è un'intervista al ministro dell'economia Padoan: la Unione Europea cambi su crescita e occupazione. Mentre La Stampa: lavoro, tensioni nel PD. Il Messaggero: addio alle province, primo sì. L'Unità: via le province, sì al governo. Il Giorno: vince Renzi, province KO. Il Secolo: abolite le province, il primo sì per Renzi. Il Manifesto invece, il provinciale, e c'è la foto di Matteo Renzi, la pseudo riforma delle province costringe una traballante maggioranza alla prima fiducia nell'era Renzi. Mentre il Fatto Quotidiano, i silenzi di Renzi, l'ex ministro Visco, la lotta all'evasione non si fa perché costa 10 milioni di voti. Così accusa Visco. Mentre Libero: l'Italia dei furbi, 118.000 stipendi da tagliare. È un po' la fotocopia dell'inchiesta ieri del Sole 24 Ore sugli stipendi della pubblica amministrazione. Il Giornale: il governo dei Pinocchio, i tagli hanno scherzato. Mentre Avvenire: un po' meno politici ma siamo più poveri. Un po' meno politici è come, secondo me, in maniera molto efficace Avvenire rende il taglio avvenuto ieri alle province. In realtà un po' meno, per la precisione 2150 rotti consiglieri provinciali che non verranno rinnovati a maggio. Io però voglio partire da una notizia di cronaca, una notizia che coinvolge l'Abruzzo, ma non solo l'Abruzzo, soprattutto l'Abruzzo, ma coinvolge soprattutto 700.000 persone. Questo almeno è la stima dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha fatto una relazione shock in un processo, il processo che vede al centro le polemiche sulla discarica di Bussi sul Tirino in provincia di Pescara, dove sono state interrate circa 250.000 tonnellate di rifiuti tossici e scarti industriali della Montedison, che è sotto accusa con 19 amministratori. Perché oggi sui giornali c'è ovunque una pagina dedicata a questo tema, veleni dai rubinetti di 700.000 persone anche nelle scuole, questo per esempio è il titolo del Corriere della Sera, oppure il Fatto Quotidiano, la politica sapeva, l'acqua ha avvelenato 700.000 abruzzesi. Perché dice la politica sapeva il Fatto Quotidiano? Perché nel 2007 l'allora presidente dell'autorità di bacino Giorgio D'Ambrosio, oggi in lista col PD alle regionali, intervenne con dei filtri risultati ancora più inquinanti. Questa è l'accusa del Fatto. Comunque, acqua al veleno nelle case di Pescara per Libero, acqua avvelenata dai rifiuti l'han bevuta in 700.000 per il Giornale. C'è il veleno, ma non diciamolo, così Repubblica. Insomma, è una vicenda di cronaca, come racconta il Corriere, Margherita De Bacca, pagina 18, di acqua inquinata che per anni è stata bevuta da tutti gli abruzzesi, soprattutto anche in scuole, ospedali. Dai, non prenderci in giro, mandaci i campioni di acqua potabile, dissero così i colleghi del laboratorio dove un professore universitario, cittadino di Torre dei Passeri, aveva inviato il liquido prelevato dalle fontanelle pubbliche del paese perché fosse analizzato. Conteneva un'alta concentrazione di sostanze chimiche tossiche per l'uomo, ed ecco perché i biologi pensarono che il loro amico abruzzese scherzasse. Era il 2007, la discarica di Bussi sul Tirino, Pescara, aperta negli anni 60-70, era stata appena scoperta da Guardia Forestale e WWF. Il professore si chiese se l'acquedotto a valle non fosse stato contaminato dalle scorie presenti nel terreno. La risposta fu positiva. Oggi una perizia dell'Istituto Superiore di Sanità depositata nel processo presso la Corte d'Assise di Chieti conferma i tragici sospetti. Le acque inquinate dalla discarica sono state, secondo la relazione, un pericolo per la salute umana di circa 700.000 persone che le hanno consumate dal 2004 al 2007, quando vennero chiusi i pozzi incriminati. Un rapporto shock, anche Libero scrive: la qualità dell'acqua è stata indiscutibilmente, significativamente, persistentemente compromessa. Il disastro sarebbe avvenuto per effetto dello svolgersi di attività industriali di straordinario impatto ambientale in area ad alto rischio per la falda acquifera e le azioni incontrollate di sversamento. Ovviamente questa è una notizia che preoccupa molti degli abruzzesi che vivono nella zona. A proposito di cronaca, guardate questa sul Corriere della Sera, visto che parleremo di migranti. Questa però è una truffa ai danni dello Stato, quindi di tutti noi, sulle spalle dei migranti. Il Corriere la racconta con Andrea Pasqualetto a pagina 21, la truffa sugli immigrati, derubati anche di acqua e pacchetti di sigarette. I PM indagano sulle presenze gonfiate nel centro di identificazione e espulsione di Gradisca, in provincia di Gorizia. La truffa, scrive il Corriere, nasce da un'idea elementare, secondo la procura di Gorizia. Considerato che lo Stato versa una somma fissa per ogni straniero, vale a dire 42 euro, la società che gestisce i centri migranti ha fatto lievitare i numeri, incassando corrispettivi molto più alti del dovuto. Agile, fraudolento, profittevole. Così dal 2008 i responsabili del centro di identificazione e espulsione del centro di accoglienza di richiedenti asilo di Gradisca di Sonzo avrebbero truccato regolarmente le fatture riguardanti la struttura che sorge a un tiro di schioppo dal confine sloveno. Per esempio, i PM scrivono di 3.458 ospiti dichiarati contro i 1.754 effettivi ad aprile, 4.050 dichiarati, ma erano 1.043 a maggio, 6.792 dichiarati, ma erano 4.003 a giugno, 8.094 a luglio, ma erano 4.370, e così via. Via facendo, il che si traduce in centinaia di ricevute contestate per circa 3 milioni di euro di sovraffatturazione. E tra l'altro è finita nei guai anche il vice prefetto. Il vice prefetto di Gorizia, Gloria Sandra Allegretto, è finita nei guai insieme ad altre 12 persone, tra cui vari amministratori attuali ed ex della Connecting, che gestisce questo centro. Tra l'altro coinvolti anche anche un ex generale dell'esercito che, dopo aver gestito, attualmente consulente esterno del centro, e rubavano anche sull'acqua, sui pacchetti di sigarette che andavano distribuite ai migranti e invece se li tenevano. E vabbè, succede questo. C'è chi ruba qualcosa di un po' meno, insomma, così, un bigliettino, magari un bigliettino piccolino, un bigliettino che però vale 500.000 euro. Leggete quello che è successo alla stampa, questa disfida per un gratta e vinci, che è stata poi risolta da un giudice. Claudio Bressani da Pavia scrive per la stampa, pagina 16: derubata del gratta e vinci dalla nonna, il giudice le restituisce 500.000 euro. È avvenuto a Isabella Montemezzani, 21 anni, di Sesto San Giovanni, e il fidanzato dell'epoca, Nicolas Gaffuri, suo coetaneo. Qualche anno fa vanno a prendere la nonna, la portano a prendere un gratta e vinci, comprano loro, i due ragazzi, un gratta e vinci, escono, fanno il solito gratta e vincono 500.000 euro. Il ragazzo subito ha un mancamento. La nonna invece non perde un secondo, dice: datemelo, voi siete minorenni e non potete riscuotere la vincita. Frac, glielo ruba, e da quel momento la nonna si tiene strettissimo il gratta e vinci, non lo molla neanche di fronte alle implorazioni. Nonna, l'abbiamo vinti noi quei soldi, li abbiamo vinti noi. Oh, sta nonnina non ha mollato il colpo finché il giudice ha stabilito ieri. Hanno ragione questi due ragazzi, diventati maggiorenni nel frattempo. L'avevano vinto loro, l'avevano preso loro questo gratta e vinci, e dunque i 500.000 euro sono loro. Il biglietto accertato nel processo è stato acquistato coi soldi dei ragazzi, la nonna l'aveva trattenuto senza averne diritto. Il problema era la minorità dei fidanzati, ma la normativa in vigore, spiega l'avvocato che li assiste, era meno rigorosa. Nuove norme hanno equiparato l'acquisto di un gratta e vinci al gioco d'azzardo. Nuove norme, ma all'epoca potevano acquistare il biglietto. E dunque, nonnina, farabutta, restituisci i soldi, dai. Come giudicare quella che è stata ieri la votazione che ha reso le province light? Questo è un titolo azzeccato del Sole 24 Ore, pagina 3. Le province light arrivano, no? Dal 2015. Tecnicamente si è votata la riforma, il disegno di legge del Rio, che peraltro non è ancora approvato definitivamente, deve passare alla Camera perché in terza lettura è stato modificato al Senato, dunque, ma è un passaggio tecnico che dovrebbe essere abbastanza rapido. In pratica non vanno a votare i consigli provinciali che scadevano e che a maggio sarebbero stati rinnovati. Si tratta, secondo il Sole 24 Ore, di 2.159 poltrone provinciali quest'anno e altre 751 nel 2015 e 2016 che non vengono rinnovate, cariche dunque, conti, soldi, stipendi. Però d'altra parte il Sole, con Gianni Trovati, fa sapere che scatta la riforma anche della politica locale nei piccoli comuni, e ci saranno dunque 15.000 posti in più da consigliere assessore con le amministrative di maggio, se l'ultima tappa a Montecitorio andrà avanti senza intoppi, e quasi 24.000 a regime i posti in più da assessori e consiglieri comunali. Ora è vero che assessori e consiglieri comunali non prendono uno stipendio e non sono un costo, soprattutto nei comuni piccoli, come gli assessori provinciali, però ecco, questo per vedere tutto nella completezza dovuta, perché quando leggerete dei titoli di alcuni, via le province, abolite le province, insomma, io lo dico da qualche giorno, se l'italiano è ancora una lingua che ha un senso, abolire le province vuol dire che le province non ci sono più. E infatti Antonio Saitta fa due interviste, una al Corriere e una al Manifesto, sarà nostro ospite alle 8.15, lui è il presidente dell'Unione delle Province Italiane, e dice: nulla cambia, burocrati e prefetti brindano. Sul Corriere dice Saitta: in realtà ci sarà un risparmio di, alla fine, se va bene, di 32 milioni di euro, cioè briciole per lo Stato spacciate per un l'autopasto. E per la verità anche Gian Antonio Stella, in prima pagina del Corriere della Sera, dice: beh, non è come spacciato da certi cantori, l'abolizione delle province. Non è questo, non è la rifondazione dello Stato, non è, pur essendo figlia un po' di Monti e un po' di Letta, la riforma di Renzi. Di più, non è chiaro come andrà a finire con la ripartizione delle competenze dei dipendenti sottratti alle province, svuotate e affidate per ora a presidenti uscenti nel ruolo di commissari. Per capirci qualcosa occorrerà aspettare la ristrutturazione, quella vera, del Senato e del cosiddetto titolo quinto sull'impianto complessivo degli enti locali. Speriamo bene, così scrive Stella. Men che meno si tratta di una vittoria sulla casta. Dice un tweet del giovane primo ministro che 3.000 politici smetteranno di ricevere un'indennità dagli italiani. Messa così sarebbe solo un boccone dato in pasto ai plebei, un tantino demagogico pure. Meglio il Matteo Renzi di 3 anni fa, scrive Stella, quando spiegava che o le province servono e allora le lasciano così, o non servono, come dico io, e allora le devono togliere tutte. Però ecco, questo si vedrà forse nella riforma del titolo quinto. Comunque, anche per Repubblica, via gli assessori, stop alle elezioni, si risparmiano subito 400 milioni. Vedremo di cercare di capire anche queste cifre. Sapete, lo dico da giorni anche qui, la politica italiana è il regno della matematica creativa, per cui per qualcuno si risparmieranno 400 milioni, per Saitta se ne risparmieranno, se va bene, 32. E poi non è che questa è un'opinione prima, ma non è che tra 3 anni si saprà poi quanto è stato il risparmio. Cioè, la matematica creativa in proiezione, ma anche la matematica creativa quando si tira una riga e si fanno i conti. In ogni caso, questo è il no alle province, ne parleremo appunto alle 8:15. È interessante, per quel che riguarda i tagli dello Stato, l'intervista certamente che Repubblica con il suo vice direttore Massimo Giannini fa a Carlo Padoan, cioè il ministro dell'economia. È la prima volta in un'intervista così corposa. L'Unione Europea cambi su crescita e occupazione, parte appunto dall'Unione Europea dei tanti temi che tocca Padoan. Parla della campagna anti-euro, un argomento pericolosissimo, lo definisce Padoan. La richiesta di uscire dall'euro è la classica scorciatoia che illude i popoli. Purtroppo, visto il disagio sociale in cui vivono milioni di persone, questo messaggio fa breccia. L'unico modo per combatterlo è ravvicinare l'Europa al suo popolo. E ancora, dice Padoan, rispetteremo tutti gli impegni e voglio dire con assoluta chiarezza sulle coperture, mia convinzione che i tagli fiscali permanenti come quelli previsti sull'IRPEF debbano essere finanziati da coperture permanenti, cioè da tagli di spesa, e se entrate una tantum ci saranno le destineremo ad altri impieghi, non certo la copertura di sgravi permanenti. Non mi piace il derby IRPEF, IRAP, è più che altro un amichevole, dice Padoan a Repubblica. Gli sgravi IRPEF o gli sgravi IRAP in realtà danno risultati simili in termini di sostegno alla crescita e all'occupazione. Al di là di questo, l'intera politica economica del governo è costruita per benefici a svariati segmenti della popolazione. Poi i temi anche più politici, un Cottarelli, commissario alla Spending Review, che si dice si vocifera sempre più isolato, ma sentite come risponde Padoan. Ma no, Cottarelli non è affatto solo, le dirò di più. Quando lavoravamo insieme al Fondo Monetario, giocavamo a squash e spesso vinceva lui. E vabbè, altra promessa, il pagamento dei crediti da pubblica amministrazione alle imprese. Col provvedimento a cui stiamo lavorando puntiamo a mettere in piedi meccanismi che accelerino il pagamento dei debiti pregressi, costruire un sistema per evitare che in futuro si riproducano questi disastri, questi ritardi. Valuteremo il tutto all'interno del DEF, ma voglio smentire che abbiamo accantonato il disegno di legge, non è così. Infine, una battuta sui rapporti con Renzi, anche qui dati per scricchiolanti, sono chiacchiere stucchevoli, risponde Padoan. I miei rapporti con Renzi sono ottimi, qualcuno ci descrive così, lui è Mandrake e io sarei Lothar. Mi sembra una rappresentazione efficace. Questo Padoan su Repubblica, anche se ieri è arrivato, come dire, il monito di Napolitano, presidente della Repubblica, che dice no a tagli, o comunque i tagli devono essere fatti non in maniera lineare, e Renzi si dice assolutamente d'accordo con il presidente della Repubblica. In tutto questo, che ne pensate del fatto che un italiano su due dichiara un reddito da metalmeccanico? Reddito dichiarato 19.750 euro. questo per i contribuenti, un reddito da metalmeccanico. E allora voglio salutare il metalmeccanico Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, metalmeccanico, Mauro, buongiorno! Buongiorno, buongiorno, metalmeccanico, vabbè, tutto sommato un appellativo che rispetto a quello che mi hai detto nei giorni scorsi mi sembra assolutamente dignitoso. Beh, 19.750 euro il reddito medio come un metalmeccanico, ecco, questo era. Ho capito il riferimento. Il riferimento era questo. Allora, sì, per oggi il redditometro arriva, trovo anche un editoriale di un certo Mauro Meazza oggi in prima pagina del Sole 24. Caspita, ma succedono cose incredibili. Barack Obama a Roma, un editoriale di Meazza sul Sole, cioè, sì, infatti i tempi stanno cambiando, le province che trovano il voto per l'abolizione, succedono cose inaudite. Il Milan che vince, inaudite. Questo era abbastanza inaudito negli ultimi tempi, effettivamente. Sì. Ho visto che dove c'era la tua foto, a proposito, nella nelle pagine interne, sai che c'era la tua foto a volte, oggi c'è la foto di Obama, quindi sei stato sostituito niente po' di meno che dal Presidente degli Stati Uniti. Sono abbastanza arrabbiato per questo, vabbè, insomma. Vuoi presentare un reclamo formale? No, vabbè, lo farò. Comunque, voglio segnalare però con 10 secondi di serietà, sì, perché dedichiamo 4 pagine allo spesometro. Esatto. Perché entro il 10 aprile tutta una serie di spese vengono segnalate all'Agenzia delle Entrate, e poi che ci fanno con questi numeri, con questi dati? Controllano così poi le statistiche sui redditi alle quali tu facevi riferimento, magari poi migliorano, insomma, sembrano più aderenti alla realtà. In qualche parte in realtà lo sono aderenti, perché si vede la diminuzione, ad esempio, dei lavoratori dipendenti, si vede la diminuzione del reddito medio, insomma. Quello non è un dato, come dire, che fa sorpresa, ecco, rispetto al tenore di vita medio. Comunque, 4 pagine sullo spesometro, quelle te le volevo senz'altro segnalare. E poi un reportage sul fatto che stiamo cercando di aumentare le nostre esportazioni di vino in Cina. C'è una battaglia di cui riferiamo nelle pagine di impresa, nel dorso, nelle pagine estraibili della prima parte del giornale. E stiamo cercando di, appunto, di migliorare la nostra presenza di vino, di vendite di vino in Cina. Capisci che per l'importanza del mercato è chiaro. È molto rilevante. Hai visto Casa 24? No, non ancora. No. La metto insieme al condominio. Come ogni giovedì, questo sempre ti fa onore, cerca di studiare, mi raccomando, prima o poi interrogo. No, volevo invece spiegare oggi, per dire che Casa 24 dedica la sua copertina all'andamento del mercato. C'è qualche timido segnale, speranza, aspettativa, stima, insomma, prendo tutte le cautele possibili, di ripresa nell'erogazione dei mutui. Volesse il cielo, viene da dire, insomma, sarebbe una ottima notizia. Sembra che ci siano delle condizioni più favorevoli. Questo è l'oroscopo dei mutui, no, il lavoro è molto serio, non ha niente a che fare con l'astrologia. E comunque tutti i dettagli, insomma, su Casa 24. Non ho capito il riferimento al campionato. Il campionato è ripartito dopo mesi di sospensione. Abbiamo fatto delle sospensioni come in Russia di 4 mesi per il ghiaccio, e ieri è ripartito con una brillante vittoria del Milan, per esempio. Non so, mi deve essere sfuggito, perché non mi risulta che sia ripartito per l'Inter. Forse non ti risulterà neanche domani, stai all'occhio. Forse non mi risulterà, vediamo se mi risulterà domani. Eccoci qua. Allora, Silvio Berlusconi. Ogni giorno c'è la notizia su Silvio Berlusconi. La questione è il tormentone telenovela, puntata numero 7432. Si candidano, no, i figli di Silvio Berlusconi. Oggi Pier Silvio Berlusconi fa un'intervista al Corriere della Sera a Paola Pica, a pagina 13. E dice: la politica è una cosa seria, non si entra come figlio, non si fa politica per successione, lo dico come elettore, come persona, non potrei mai candidarmi tanto per mettere il mio nome in lista, non è serio. Ho la fortuna, la responsabilità di essere figlio di un imprenditore che ha fatto nascere la TV privata in Italia. Certo, tra 10 anni mai dire mai. Considero la politica qualcosa di serio e alto, anche in politica bisogna crescere e acquisire competenze. E Marina Berlusconi: ci sentiamo con lei praticamente tutti i giorni, ci consultiamo su tutto e mio padre è stato chiaro. E se in politica entrasse Barbara, la scelta sta a ognuno, ma mi pare che le cose non stiano così. Insomma, per Silvio Berlusconi sembra smorzare alla puntata 7400 e quella là, questa polemica che domani sarà rinvigorita ovviamente con altri articoli e retroscena. Tra l'altro, una Forza Italia che compie 20 anni proprio in questi giorni, anzi proprio oggi. Anche se il Messaggero fa capire che è davvero un anniversario per cui Berlusconi non ha voglia di festeggiare, come scrive Mario Aiello a pagina 11, festeggiare, non c'è nulla da festeggiare. Cosa dovrei festeggiare? Il fatto che il 10 aprile i giudici vogliono mettermi in cella? Ecco, dicendo ai suoi questo fa capire il mood, il momento, lo stato d'animo che c'è in questo momento attorno a Silvio Berlusconi, soprattutto con il retroscena che a me ha strappato due risate alle 6:30, per carità, verrà smentito, no, perché smentire è una seconda conferma secondo un vecchio adagio e quindi passerà sotto silenzio, ma il secolo XIX titola questo a pagina 3: udite udite cari ascoltatori, Giovanni Palombo, nervi tesi in casa Berlusconi, la Pascale schiaffeggia il suo amato. Insomma, secondo questa retroscena del secolo, la riunione di famiglia ad Arcole si è conclusa ieri a tarda sera col padrone di casa Berlusconi che dice ai figli: non dovete litigare, dovete fare quello che vi dico. Ma soprattutto due settimane fa, racconta il quotidiano di Genova, la fidanzata napoletana Francesca Pascale ha dato due schiaffi all'ex premier che aveva invitato una modella a Villa San Martino. Ripeto, prendetela per quello che è, un retroscena, certo che lo schiaffone, pim pum pam, l'immagine certamente è un qualcosa che suscita un sorriso, ma non so, dubito, stento a crederci, ecco, poi non lo sapremo mai. Dicevamo, oggi c'è la visita di Obama, ieri è arrivato. Oggi sarà in una Roma blindata, cercate di informarvi prima di spostarvi perché insomma anche i cellulari verranno oscurati. Tra l'altro Obama fa un'intervista al Corriere della Sera, io non voglio essere irriverente, insomma è importante, ma queste interviste sapete un po' come vanno, sono interviste della pagina 2-3, Barack Obama parla, voglio dire... Non è che non aspettatevi da queste interviste istituzionali delle grandi rivelazioni. Se ve la devo riassumere in tre righe, due pagine di intense domande di sette righe, risposte di 50 righe di Obama, bravi, coraggio, vi stimiamo, viva il Papa e l'Expo sarà un grande successo. Ecco, questo in grande sintesi è quello che ha detto Obama al Corriere della Sera a Massimo Gaggi. Grande parole di elogio per il Papa, per il suo sforzo nella lotta alla povertà, e dice Obama: è anche la mia lotta. Lui ci implora di ricordarcela della gente, soprattutto della povera gente. Parla dell'Expo: so che stiamo facendo a Milano un ottimo lavoro. Sono ancora centinaia di milioni le persone nel mondo che soffrono l'ingiustizia di vivere senza abbastanza cibo per sfamarsi. Trovo moralmente oltraggioso tutto ciò. E poi l'impegno dell'Italia nell'Unione Europea, l'impegno nella NATO. Vabbè, insomma, ripeto, frasi di circostanza in questa intervista. A me incuriosisce, ma sarò io più un coatto, mi incuriosisce di più quando leggo gli articoli come quello del Messaggero su cosa comporta una visita di Obama. Volete sapere cosa comporta? Con Obama, ecco cosa succede, racconta tutto Anna Guaita. Intanto l'Air Force One sono due aerei uguali, due 747, due vere fortezze volanti, arriva con l'Air Force One. Lì dentro c'è di tutto, 26 veicoli corazzati a bordo dei quali il corteo presidenziale si sposterà oggi, 8 motociclette, un elicottero, 200 agenti del servizio di sicurezza, un assaggiatore, c'è anche l'assaggiatore, un'ambulanza fornita del necessario per affrontare casi di avvelenamento biochimico e poi c'è la regina, The Beast. La bestia, la limousine presidenziale che resiste a bombe, proiettili, gas, vetri di una Cadillac spessi 12 cm, copertoni rinforzati di Kevlar, serbatoio protetto da schiumanti anti-esplosione. A bordo ci sono armi, maschere d'ossigeno, una sacca di sangue dello stesso tipo di Obama. Ecco, così si presenta per motivi di sicurezza il presidente americano a Roma. A proposito di cronaca, vi segnalo la nuova linea dell'Italia sui Marò. La linea è questa: Marò, i due fucilieri che sono da oltre 2 anni in India, accusati di aver ucciso 2 pescatori. I Marò non si presenteranno al processo. Questa è la linea dell'Italia: non riconoscere la giurisdizione indiana, puntare a un arbitrato internazionale. Questo è l'inviato del governo De Mistura, anticipato al Parlamento la svolta nella strategia difensiva dei fucilieri. Ma certo, la situazione rimane molto delicata e rimangono lì. Oh, poi vabbè, la notizia che c'è su tutti i giornali: l'annuncio della disunione consapevole, il divorzio in rete di Gwyneth Paltrow e di Chris Martin, che è il leader dei Coldplay. Così ho azzeccato, guardo Miriam, perché io su queste cose faccio sempre delle figure barbine. C'è anche un buongiorno spettacolare di Massimo Gramellini su questo, ma non ho tempo di leggervelo. Come è vista la notizia da chi è interessato a questi stravolgimenti e sconvolgimenti nel mondo dei VIP e diciamo la gente comune, che invece vede questa come la separazione di 2 miliardari e chi se ne frega. Ecco, il buongiorno diviso in due. Ma sono al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato oggi sui giornali, e oggi devo dare il premio a Repubblica, a Enrico Franceschini, e la dedica di una intera pagina, una pagina, al principino Harry. Ah, per me le notizie sul principino Harry vanno in default, proprio subito, in classico, in la carta costa. Appena Principe Harry, track, questo vince il premio. Il Principe Harry è andato a sciare in Kazakistan. È già questo. E Amnesty International ha detto: vabbè, poteva dire almeno una parolina contro il regime in Kazakistan. Ma vi rendete conto? Il principino Harry a sciare in Kazakistan. Una pagina su Repubblica.